TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Fame di medici di famiglia e dopo 3 anni di attesa il medico di base finalmente torna nella Valmeduna. La situazione è difficile ovunque, ma nelle località piccole, periferiche e montane è anche peggiore. A riaprire l'ambulatorio di Meduno è il dottor Lucio Bomben, ex dirigente sanitario. L'assistenza a persone non autosufficienti o fragili tra innovazione tecnologica e impatto economico sul tessuto sociale. Se ne parla a Gorizia in occasione del terzo Caregiver Day promosso dall'ente regionale. In un container le confezioni di shampoo e di profumatori per la casa senza marca, in un altro le etichette false di famosi marchi internazionali del settore. Bastava solo incollarle. La merce proveniente dall'Asia, immessa sul mercato, avrebbe fruttato 1 milione di euro. Sotto sequestro, nel porto di Trieste, 600.000 confezioni di shampoo e 147.000 di profumatori. Per chi studia medicina in Friuli Venezia Giulia, un anno dopo la laurea, il lavoro è garantito, lo dice l'osservatorio Talents Venture su dati del rapporto Alma Laurea 2025. Nell'ambito medico-farmaceutico il 95,6% di chi si laurea a Trieste e il 94,9% di chi lo fa a Udine dopo un anno ha trovato già un'occupazione, buoni posizionamenti anche in altri ambiti. Le applicazioni dell'intelligenza artificiale alla cultura per la valorizzazione di musei, archivi, biblioteche. A Gorizia una 2 giorni per mettere a confronto mondo accademico e professionisti del settore culturale, con uno sguardo anche alle nuove frontiere dell'arte tra creatività umana e fantasia originata dall'intelligenza artificiale. A Trieste, fra i temi di oggi degli eventi che precedono la Barcolana, la regata verica di scena domenica prossima, 2 appuntamenti per imparare a conoscere e tutelare cetacei e squali dell'Adriatico, oltre a un convegno per esperti del settore, anche un incontro pubblico nel pomeriggio in sala Luttazzi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Lorenzo Gerlinzoni e Antonio Cagliazza. La carenza ormai cronica e pesante di medici di base si fa sentire nelle città come nelle località più piccole. La situazione è anche più difficile nei centri montani e periferici. È il tema di apertura di questa edizione del nostro giornale radio, un tema che ci porta a Meduno, perché qui a fare il medico di famiglia ha accettato di andare un dirigente sanitario con l'esperienza e il curriculum del dottor Lucio Bomben, già direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Per la gente di Meduno e per Tramonti significa tanto, perché la gente che non riescono a spostarsi, non hanno la macchina, la gente anziana, significa tanto un medico averla fisso. A Meduno la sala d'attesa è un via vai di persone già dal mattino nella prima giornata di servizio di Lucio Bomben, che da direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria ha iniziato una nuova vita da medico di montagna. È un mondo completamente diverso rispetto al lavoro che facevo prima. Quello che mi piace di più è il contatto con le persone, ci parli, ci scherzi, li visiti. Che cosa pensa di poter dare alla gente di questa comunità e che cosa di ricevere? Cominciamo con quello che vorrei ricevere, delle relazioni correttissime, fatte di sincerità. Quello che penso di dare è la mia disponibilità. Essere qua presente, andare a casa a trovarli, che è anche tra l'altro uno dei motivi per cui ho scelto di cambiare, no? Riacquistare, riprendere le relazioni con le persone, stargli vicino, che era il lavoro del medico. Lo aspettavano da quasi 3 anni il ritorno del medico di famiglia nella Vallata, risultato ottenuto grazie ai sindaci, Regione e ASFO. La sindaca di Meduno, Marina Crovatto. Il bisogno di salute da parte dei cittadini è la cosa essenziale e principale, quindi aver raggiunto questo per noi è una grande soddisfazione. Se la medicina territoriale poi funziona molto bene, l'ospedale e tutta la sanità ne ha dei vantaggi. Domani sarà di turno a Tramonti di Sopra e oggi pomeriggio a Tramonti di Sotto, dove lo aspetta un benvenuto della comunità. Il sindaco di Tramonti di Sotto, Giampaolo Bidoli. È un passo importante nella riacquisizione di servizi fondamentali per comunità come le nostre, di montagna. Quindi avere di nuovo il dottor Bomben, uno che anche ci abita qua, è per noi una cosa importante. Per noi e per quelli che poi ci vengono a trovare in Val Tramontina. Meduno, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Gorizia stamattina il terzo Caregiver Day FVG, la giornata dedicata alla valorizzazione del ruolo di chi ogni giorno si prende cura di familiari e persone fragili o non autosufficienti. L'edizione di quest'anno mette al centro due temi chiave, l'innovazione e l'impatto economico dell'assistenza. Tra i bisogni principali di chi si prende cura di un familiare spiccano le misure di sostegno economico, il supporto psicologico e la necessità di conciliare vita e lavoro. L'invecchiamento demografico sta generando nuovi bisogni, facendo emergere la gestione della non autosufficienza. In Friuli Venezia Giulia riguarda il 21,7% delle persone con più di 65 anni. L'impatto economico dell'assistenza deve tener conto del valore del lavoro dei caregiver. Ludovico Carrino, Università degli Studi di Trieste. È necessario un nuovo paradigma di spesa pubblica ragionata sul long term care, oltre quello che stiamo facendo. C'è una logica di come il long term care può aiutare l'economia, non essere un costo, un freno. Ci sono tante persone, tutti i caregiver informali, che hanno un grandissimo potenziale di creazione di valore umano ed economico e la spesa pubblica può aiutarli a trovare la loro strada liberamente. Il Friuli Venezia Giulia è rispetto alle altre regioni un modello in termini di investimenti, ma non basta. Elisabetta Notarnicola, SDA Bocconi Milano. Il Friuli ha investito tanto sull'assistenza domiciliare, però l'assistenza domiciliare che consente oggi il nostro sistema italiano non aiuta i caregiver veramente a domicilio perché offre poche ore. Quindi forse è tempo, continuando gli investimenti, di ripensare il modello di assistenza domiciliare per aumentare l'intensità e offrire alle famiglie delle risposte veramente quotidiane che possano aiutarle nelle loro difficoltà. La necessità di conciliare vita e lavoro è un altro bisogno fondamentale, sentito, secondo un'indagine, dal 37% dei caregiver. Veronica Carminati, caregiver. Il caregiver, per riuscire a conciliare vita lavorativa e privata, oltre a quella del ruolo di caregiver, ha bisogno di essere inserito all'interno di un welfare in cui tutti gli attori in gioco, dunque pubblica amministrazione, istituzioni, enti del terzo settore, fondazioni, facciano rete. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Udine la regione ha presentato insieme a Confcommercio un Recruiting Day a favore delle strutture ricettive della città. 100 posti di lavoro nel turismo e nella ristorazione, a metterli a disposizione una ventina di aziende di Udine e dei comuni vicini, con un Recruiting Day che si terrà nel capoluogo friulano il 30 ottobre. Le domande vanno inviate entro il 21. La particolarità, dopo le iniziative simili organizzate da Confcommercio e dalla Regione, è che in questo caso i posti non sono stagionali, ma guardano a lungo periodo, come spiega Alessandro Tollon, vicepresidente di Confcommercio Udine. Abbiamo selezionato e la Regione continua a selezionare quotidianamente dei profili proprio perché si fermino a lungo nelle aziende. È così difficile far incrociare domanda e offerta, cioè i giovani che escono dalle scuole di formazione e le richieste degli esercizi, della ricettività, dei ristoranti? I ragazzi che escono dalle scuole vengono intercettati subito. Alcuni di loro, per la verità, poi scelgono strade diverse, quindi andare all'estero o muoversi, andare a cercare anche fuori dalla regione dei posti. Noi in questo modo cerchiamo di tenerli qua. Questo tipo di opportunità è rivolto soltanto a persone del posto o c'è anche chi potrebbe scegliere di venire qui? No, arrivano anche profili da fuori, ci sono alcuni flussi anche di immigrazione che voglia di stabilirsi qua e cerchiamo di intercettarli. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia. Passiamo alla cronaca. In un container c'erano confezioni anonime di shampoo e profumatori per la casa, in un altro invece le etichette falsificate di famosi marchi internazionali del settore. In tutto merce che immessa sul mercato poteva fruttare circa 1 milione di euro. Obiettivo degli importatori era evidentemente quello di applicare le etichette sui contenitori e farli arrivare ai grossisti facendoli passare per autentici. A scoprire questo traffico illecito la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Trieste in una operazione portata a termine nel porto giuliano. Sequestrate in tutto 600.000 confezioni di shampoo e 147.000 di profumatori. Dopo la requisizione la merce è stata analizzata anche con l'aiuto dei tecnici delle aziende titolari dei marchi, vittime di questa operazione di concorrenza sleale. I container arrivavano dalla Turchia, precisamente dal porto di Mersin, ed erano destinati a una società austriaca. Le indagini coordinate dalla Procura di Trieste puntano a ricostruire tutta la filiera del falso per individuare i destinatari finali. Solo un anno di attesa prima di entrare in corsia per chi si laurea in medicina a Trieste, stessa tempistica per chi esce dall'Ateneo di Udine. L'osservatorio Talent Venture, su dati Alma Laurea, ha stilato la classifica delle università, facoltà per facoltà, in base ai dati sull'occupazione successiva al conseguimento del titolo. Per chi studia medicina in Friuli Venezia Giulia, 12 mesi dopo la laurea il lavoro è garantito. A metterlo nero su bianco è l'osservatorio Talents Venture, che a partire dai dati del rapporto Alma Laurea 2025 ha tracciato una classifica delle università italiane in base al tasso di occupazione dei laureati a un anno dal termine degli studi, diviso per ambiti specialistici. In quello medico-farmaceutico, concorso di studi a ciclo unico, secondo l'indagine, gli atenei regionali sono ai vertici assoluti della graduatoria. Il 95,6% di chi si laurea a Trieste e il 94,9% di chi lo fa a Udine, dopo un anno, ha trovato un'occupazione. Al terzo posto, distante più di un punto percentuale, l'Università del Piemonte Orientale. Anche altri settori disciplinari vedono le due università della nostra regione in cima al podio. Udine è seconda dietro Modena e Reggio Emilia per l'occupazione dei laureati in scienze dell'educazione con il 93,3% e prima per quella di chi ha scelto l'ambito scientifico con il 92,9%. È sempre prima, assieme alla Luigi Vanvitelli di Napoli, per ingegneria industriale e tecnologica. In questo caso, dopo un anno dalla conclusione degli studi, a lavorare sono addirittura il 100% dei laureati. Quanto all'Ateneo Triestino, si classifica secondo per l'ambito giuridico con il 78,8% dei laureati che dopo un anno lavorano e primo in due settori, quello economico con il 96% e, assieme a molte altre università italiane, quello di architettura e ingegneria civile. Anche qui, dopo un anno, ad aver trovato un impiego sono tutti i laureati della magistrale biennale e del corso a ciclo unico. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. A un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico in Slovenia siamo andati a vedere come si svolgono le lezioni dei bambini della comunità italiana a Capodistria. Stamattina siamo andati al Collegio dei Nobili, appena restaurato e inaugurato dai presidenti di Italia e Slovenia Mattarella e Pirc Musar. Occasione per conoscere il sistema scolastico dei nostri vicini di casa. Il Collegio dei Nobili a Capodistria, sede della scuola primaria italiana Pierpaolo Vergerio, apre già alle 7, ospita bambini dalla quinta alla nona classe primaria, e cioè dai 10 ai 14 anni. Tra di loro c'è anche chi viene da Muggia e da Trieste. La vicepreside Tinkara Mihacic. La scuola apre in base alle necessità delle famiglie. Per i bambini più piccoli, ovvero quelli che frequentano la prima e la seconda classe, la scuola può aprire in base proprio alle necessità anche alle 6:30. Le materie opzionali o attività dallo sport all'arte si studiano, si fanno dalle 7:30 alle 8:15 oppure dalle 14 dopo il pranzo. Altro servizio garantito in tutte le scuole con le merende al mattino e al pomeriggio, perché chi vuole sta a scuola fino alle 16:30. Poi c'è anche il logopedista a scuola, lo psicologo, addirittura il dentista, è così? Ogni scuola ha una consulenza scolastica dove sono impiegati diversi profili professionali. Nella nostra scuola, nello specifico, abbiamo una psicologa e una pedagogista, più una pedagogista inclusiva che lavora con bambini con bisogni educativi speciali, e c'è una logopedista, un'altra figura professionale, che svolge alcune ore presso diverse scuole. Tanta attenzione allo sport fino a 3 ore alla settimana e poi salute, igiene, educazione civica, alla cittadinanza, sicurezza in strada, e si punta sin dalla prima all'educazione e all'autonomia. Dalla terza o quarta classe in poi i bambini possono raggiungere la scuola anche da soli, anche perché qualcuno arriva anche in autobus, le fermate non sono proprio vicine alla scuola ma poi raggiungono appunto la scuola in autonomia. E c'è anche un cartello: da qui in poi devo camminare da solo, vero? Sì, proseguo da solo, sì. Riguarda soprattutto i bambini più piccoli perché si vuole, insomma, potenziare la loro autonomia. Capodistria, Eva Ciutti, GR Friuli Venezia Giulia. Quale può essere l'apporto dell'intelligenza artificiale nella valorizzazione dei luoghi della cultura, in particolare musei, archivi e biblioteche, e quali invece sono i limiti? Se ne parla nel corso di una 2 giorni, al via da questo pomeriggio, tra poco alle 15.30, al Conference Center del Polo Universitario di Gorizia, a organizzarla l'Università di Trieste. Ce ne parla Francesca Fiorentini, che è la coordinatrice del sistema museale di Ateneo. Sentiamola. Si aprono prospettive di valorizzazione dell'arte e in generale delle attività culturali e anche dei luoghi che si occupano della fruizione della cultura nei confronti del pubblico e della divulgazione della cultura. Quindi l'intelligenza artificiale può o valorizzare arte che già esiste oppure produrla. Quindi si pone subito il conflitto o comunque una certa tensione tra quella che è la creatività umana e l'automazione dei dati che è rivolta alla produzione di arte. Ma si può veramente parlare di arte? Si può parlare di arte perché esiste l'arte digitale che può essere creata con i mezzi digitali dalla creatività umana, ma esiste anche un'arte digitale che può essere creata dal robot, diciamo così, quindi dalla tecnologia stessa. E quindi qui si pone un problema di conflitto fra la creatività e l'originalità, che è il requisito qualificativo dell'opera d'arte, almeno tradizionalmente è stato questo, e la qualità artistica di un'opera che è interamente digitale, la cosiddetta opera d'arte generata digitalmente. E naturalmente, da un lato, anche l'arte digitale generata può offrire un ampliamento del catalogo dell'arte disponibile all'umanità, dall'altro lato essa chiaramente può condurre a un problema di uniformazione delle espressioni artistiche e di riduzione della varietà delle espressioni culturali. E questi sono temi molto caldi che meritano di essere esplorati sia sotto un profilo scientifico, e quindi ci saranno esperti per i vari settori che analizzeranno questi profili, sia da un profilo operativo, imprenditoriale, dove i tecnici ci spiegano quali sono le tecnologie appunto utilizzate per valorizzare l'arte digitale o comunque per utilizzare l'intelligenza artificiale nel mondo dell'arte. I riscaldamenti nelle città della regione possono essere accesi a pieno regime solo a partire dal 15 ottobre. Rimane comunque possibile, senza richiedere autorizzazione, far funzionare gli impianti, secondo necessità, per un massimo di 7 ore al giorno, purché negli ambienti non siano superati i 20-22 gradi centigradi. Lo precisano i comuni di Trieste e Udine a seguito delle richieste di chiarimento arrivate da diversi cittadini dopo l'ondata di freddo giunta soprattutto nella giornata di ieri. Il comune di Pordenone aveva già emesso il 2 ottobre un'ordinanza specifica in cui autorizzava la deroga. Diamo uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso su gran parte della regione, queste le temperature: a Trieste 15,5 gradi, 14 gradi a Udine, 13 gradi a Pordenone e a Gorizia, a Forni di Sopra 12 gradi, a Tolmezzo 11, 10,5 sul Piancavallo, a Sappada 8 gradi, 7 gradi a Tarvisio, in quota sullo Zoncolan 5 gradi, sull'Ussari 3 e tornando sulla costa a Grado 13,5 gradi, a Lignano 12,5. Ed ecco le previsioni. Oggi in genere cielo poco nuvoloso, cielo variabile nelle zone alpine più interne. Diamo un'occhiata anche a domani, martedì: cielo poco nuvoloso o variabile, nuvolosità più consistente sulla fascia orientale e sulle zone alpine, temperature massime in lieve aumento. Alla Barcolana due eventi per conoscere e tutelare cetacei e squali dell'Adriatico, promossi dall'area marina protetta di Miramare in collaborazione con Regione, Guardia Costiera e l'organizzazione filantropica di Wendy Schmidt, la statunitense vincitrice della Coppa d'autunno nel 2022. Oltre a un convegno per addetti del settore, un incontro pubblico, un appuntamento dal titolo I giganti del mare, storie di cetacei del Mediterraneo al Golfo di Trieste, si terrà questo pomeriggio alle 18 in Sala Luttazzi a Trieste. Squali, balene e delfini vengono avvistati sempre più di frequente nell'alto Adriatico. Saulo Ciriaco del WWF ci spiega chi sono e perché si spingono tanto a nord. I cetacei che vediamo più frequentemente sono i tursiopi, quindi diciamo i delfini, che solitamente migrano dalla Slovenia verso il Golfo di Trieste per motivi alimentari. Occasionalmente vediamo invece le balenottere comuni, come quella che si è spiaggiata l'anno scorso, e per quanto riguarda gli squali invece sono piuttosto frequenti gli squali volpe, ma siamo molto più abituati invece a mangiare per esempio l'asià e il cagnetto, che sono specie per le quali andiamo a caccia e delle quali ci alimentiamo comunemente. Per quanto riguarda i cetacei, il loro aumento di numero a queste latitudini è un aspetto positivo per il nostro mare? connotarli in maniera necessariamente positiva non è corretto. Il fatto che ne vediamo di più è probabilmente legato ai cambiamenti che il nostro mare sta subendo e quindi le rotte che loro seguono sono diverse. A questo si aggiunge un'attenzione del pubblico straordinaria, pubblico al quale chiediamo ovviamente, qualora vedano individui di qualsiasi tipo, anche se non li riconoscono, possibilmente di fare delle fotografie e inviare la segnalazione alla Capitaneria di Porto o direttamente all'Area Marina di Miramare. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. La rompighiaccio Laura Bassi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, l'OGS, è salpata dal porto di Trieste e raggiungerà l'Antartide a dicembre passando per la Nuova Zelanda. La nave parte con un nuovo assetto grazie a un piano di ammodernamento e di manutenzione straordinaria reso possibile dai 4 milioni di euro stanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca. L'arrivo della nave Laura Bassi in Nuova Zelanda è previsto per metà novembre, mentre il rientro a Trieste avverrà nella seconda metà di aprile del 2026, al termine di una missione di oltre 190 giorni. Nella pagina sportiva torniamo sul pareggio con cui ieri l'Udinese ha chiuso la partita casalinga contro il Cagliari, un 1-1 che ai friulani sta stretto. Nel servizio la voce di Alessandro Zanoli, difensore dell'Udinese, alla prima da titolare in campionato. Forse ingenerosi perché sono fischi che accompagnano una squadra dopo un pareggio che significa quota 8 punti in classifica dopo 6 giornate, ma i tifosi dell'Udinese aspettano la prima vittoria in casa in questo campionato da 8 gare se si considera la stagione passata. La squadra di Rugnajc ha rinnovato il concetto di errore clamoroso, lo ha fatto dopo aver trovato la rete del pareggio nella ripresa, per due volte con Zaniolo che non sfrutta l'assist di Davis lasciando tutti a bocca aperta e senza sorrisi, e poi con Baiò che nel recupero sbaglia il più facile dei gol. Succede dopo che l'Udinese totalizza 23 tiri, tra cui un palo e una traversa. La rete la segna un difensore, Cabasele, su assist di un altro difensore, Solé. Qualcosa in attacco non funziona. Sì, sicuramente siamo rammaricati perché era una partita che, viste le occasioni, era da vincere, ma è andata così. Comunque l'importante è anche portare a casa un punto contro una squadra come il Cagliari e va sempre bene. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Esordio amaro per l'APU al ritorno nel massimo campionato dopo 16 anni. A Reggio Emilia è 76-71 per i padroni di casa, con i friulani che hanno pagato l'assenza di Hickey e anche un avvio molto negativo in difesa. Sentiamo l'analisi del coach udinese Adriano Vertemati. Bisogna fare complimenti a Reggio Emilia che ha meritato di vincere. Dopodiché spero che la metamorfosi della squadra fosse nel primo quarto. Nel senso che non l'abbiamo giocato, mentre gli altri tre li abbiamo conditi da errori che chiaramente derivano dal fatto che gli avversari sono entrati molto in fiducia nel primo quarto per colpa nostra, ma comunque li abbiamo giocati. Quindi abbiamo regalato un quarto, abbiamo permesso a troppi giocatori avversari di sentire la partita. Coupé in praticamente ogni pick and roll ha fatto vantaggio, ha messo la palla in mano ai lunghi avversari producendo, e poi diventa difficile, anche segnato un canestro complicato all'inizio del terzo quarto, ma questo, ripeto, al di là di qualità incredibile del giocatore, chiaramente è responsabilità di come noi abbiamo approcciato. Eravamo all'intervallo con 17 canestri segnati dal campo per Reggio Emilia, di cui 16 sono stati assistiti. Significa che non ci hai messo mano fisicamente. Nel secondo tempo molto meglio, però chiaramente poi arrivi corto perché poi qualche cosa ti sfugge sempre. Abbiamo vinto a rimbalzo, abbiamo avuto almeno un paio di prestazioni assolutamente sotto il livello che ci aspettiamo, e una terza che non è proprio cominciata neanche, che è quella di Iki. Quindi benvenuti nella Lega a tutti noi, cerchiamo di ripartire dal secondo quarto in poi. Ancora basket, ma di serie A2, con la sconfitta al photo finish per Cividale contro Fortitudo Bologna, che si impone 81-78, decisivo il canestro da 3 punti del bolognese Moore, avvenuto però oltre il tempo limite e convalidato lo stesso dagli arbitri. L'allenatore dei Ducali, Stefano Pilastrini, non fa polemiche e si concentra sulla prestazione della sua squadra, attesa mercoledì al riscatto in casa contro Rieti nel primo infrasettimanale della stagione. una partita giocata con grandissima fisicità, soprattutto da parte della Fortitudo. Sapevamo, perché avevo visto, oltre che conoscere un po' la cosa, ma avevo visto la partita di domenica con Scafati. Noi siamo stati abbastanza bravi a supportare questo gioco con così tanti contatti, con così tanta fisicità, soprattutto perché alla distanza non l'abbiamo subito, cosa che avevo visto domenica scorsa che qua era successa. Noi l'abbiamo subita all'inizio, nel secondo quarto, ma l'abbiamo lasciato in balzo di attacco. Poi addirittura siamo riusciti a pareggiare il confronto al rimbalzo, quindi dopo abbiamo girato proprio agonisticamente. I miei giocatori sono stati molto bravi. Sono le 12:54 minuti e 50 secondi. Grazie a Walter Vidonis e a Federico Comar per l'assistenza tecnica, a Valentina Veneruso per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Vi invitiamo come sempre a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili social della redazione e sul sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Da Lorenzo Gerlinzoni e da Antonio Cagliazza l'augurio di un buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.